GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un anno fa la morte dei tre giovani travolti dalla piena del Natisone, tra poco una cerimonia di ricordo con i genitori dei ragazzi morti. Il 31 maggio 1972 a Peteano l'attentato che uccise tre carabinieri, questa mattina una cerimonia di commemorazione. A Clauzetto il medico di base è convalescente, grossi disagi per gli abitanti, la denuncia del sindaco Giuliano Cescutti. Technology Day all'istituto Il Tagliamento di Spilimbergo, studenti a confronto sulla tecnologia del territorio. Auto storiche e simulatori virtuali in Piazza Unità a Trieste per parlare di sicurezza stradale. Quasi 800 gli incidenti in un anno in provincia. Compie 20 anni il Teatro Verdi di Pordenone. Ieri per l'occasione un concerto straordinario che ha visto protagonista Daniela Barcellona. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. Un anno fa tre giovani morivano travolti dalla piena del fiume Natisone. Patrizia Cormos, 20 anni, Bianca Doros, 23, Christian Molnar, 25. In una foto indimenticabile si abbracciano sotto il ponte romano di Premariaco mentre l'acqua sale in attesa dei soccorsi arrivati troppo tardi, a un anno di distanza. Siamo tornati là. Ci sono alcune persone che prendono il sole e fanno il bagno oggi sul greto del Natisone, sotto il ponte romano di Premariaco. Esattamente un anno fa, a questa stessa ora, stava piovendo intensamente nell'alto bacino del corso d'acqua. In paese si erano già verificate precipitazioni temporalesche intense. Alle 14.10, Christian Casia Molnar, Patrizia Cormos e Bianca Doros, giunti qui per una gita, venivano trascinati via dalle acque in piena del Natisone. Oggi dall'alto del ponte, da dove si vedono i bagnanti, mazzi di fiori, le foto dei tre ventenni e una lunga lettera scritta da un loro coetaneo. C'è chi si ferma in raccoglimento, chi incuriosito, come una turista che non conosceva la loro storia e si commuove non appena gliela raccontiamo. Alle 13 è previsto un momento di ricordo con i genitori di Patrizia Cormos, assieme al loro avvocato e alla sorella di Patrizia. Quel giorno di un anno fa, alle 13.18, come si vede in una prima immagine scattata dai loro cellulari, il greto del Natisone è completamente asciutto, ma già alle 13.24 i tre si trovano bloccati su una sorta di isoletta, il livello dell'acqua era salito. Tutto ciò che è successo dalle 13.29, orario della prima chiamata di Patrizia al NUE, per i successivi 40 minuti, l'abbraccio tra i flutti, il tentativo di raggiungerli da parte dei vigili del fuoco, l'arrivo dei soccorsi con l'elicottero sanitario 3 minuti troppo tardi, tutto questo è stato oggetto di indagine da parte della procura di Udine, che ha rinviato a giudizio 3 vigili del fuoco e un'infermiera della SORES. L'udienza preliminare si terrà il 19 settembre e sarà quella la sede per iniziare ad accertare eventuali responsabilità. Ancora scossa la cittadinanza. Stasera ci sarà una messa in suffragio a Iplis alle 19. Abbiamo provato a parlare con diverse persone presenti quel giorno sul ponte romano, da coloro che allertarono i soccorsi agli stessi soccorritori. Sono tutti ancora troppo scossi e nessuno se l'è sentito di incontrarci. In diversi hanno ricorso ad un supporto psicologico. Una barista di Premariaco ci legge una vecchia poesia in friulano dedicata al fiume. Gli ultimi versi recitano: verde, profonda, silenziosa, l'acqua del Natisone si ferma, tace, più non corre, non fa rumore quando arriva sotto il ponte di Premariaco. Premariaco, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Era parcheggiata lungo la strada provinciale 8 l'auto che il 31 maggio 1972 esplose a Peteano uccidendo tre carabinieri, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, con il brigadiere Antonio Ferraro. I militari erano sul posto perché una telefonata anonima aveva segnalato un'auto con fori di proiettile sul parabrezza e l'ordigno esplose al loro tentativo di aprirne il cofano. L'attentato oggi è stato commemorato dal generale Gabriele Vitagliano, comandante regionale dell'arma, e alla presenza della nipote Luigina Don Giovanni e della vedova di Ferraro Rita Famea con le istituzioni locali. Le indagini accertarono che la strage fu un atto terroristico, 2 le condanne inflitte ad appartenenti al gruppo neofascista Ordine Nuovo, cioè a Vincenzo Vinci Guerra, ergastolano recluso nel carcere milanese di Opera, e a Carlo Cicuttini, deceduto nel 2010 dopo la condanna all'ergastolo. Le responsabilità accertate per il neofascista Ivano Boccaccio furono invece successive alla sua morte nell'ottobre 1972 nell'assalto con Cicuttini all'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Super lavoro nella notte per i soccorritori in Friuli. Sono almeno 3 gli incidenti stradali ai quali hanno dovuto fare fronte tra le 22 e le 4 e mezza del mattino i vigili del fuoco, la SORA e i carabinieri. A San Marco, una frazione di Mereto di Tomba, un'auto si è ribaltata dopo essere stata tamponata violentemente. A bordo c'era una donna che è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Udine. Non rischia la vita, ma ha subito gravissime ferite a una mano. Sembra anche la parziale amputazione di alcune dita. L'elisoccorso è invece intervenuto a Flambruzzo, una frazione di Rivignano, per una fuoriuscita autonoma. Il bilancio qui è di 3 feriti, 2 soccorsi con l'ambulanza, mentre il più grave è stato portato in volo all'ospedale. Incidente anche a Palazzolo dello Stella per un frontale. Fortunatamente tutti illesi, 3 passeggeri a bordo. Quando i soccorsi sono arrivati erano già tutti fuori dall'auto. Il medico di base di Clauzetto è convalescente da mesi per i suoi 900 pazienti. Il servizio garantito è andato via via riducendosi fino all'annuncio che nelle prossime 2 settimane ci saranno in tutto 2 sole aperture degli ambulatori. A denunciare la situazione è il sindaco di Clauzetto, Giuliano Cescutti. Da martedì, visto che lunedì è festa, la situazione per i 900 pazienti del nostro medico convalescente sarà quella per cui la programmazione degli ambulatori qui a Clauzetto è di 2 giornate, il 5 a Clauzetto e l'11 di giugno ad Anduins di Vito D'Asio. Per il resto dovranno rivolgersi per avere una visita a medici che stanno a Pinzano Tagliamento, a Spilimbergo o a Sequals, con un contingentamento delle possibilità e distanze mediamente di oltre 20 km. Per quanto riguarda i farmaci, dovranno rivolgersi alla cosiddetta ASAP di Meduno, telefonando, dando una mail. Immaginiamoci il paziente di 80, 85, oltre 90 anni che deve dare la mail, e su questa mail gli sarà inviata la ricetta. E ecco, immaginatevi l'assurdità di tutto questo di fronte a quella che è anche la tipologia dei nostri assistiti. La distanza e anche l'età è il fatto di non essere tutti nativi digitali, evidentemente. L'ASFO dice che sta cercando medici perché non ce ne sono. Quali sono le vostre richieste, proposte? Allora, questa ricerca stupisce molto ed è una richiesta che abbiamo capito si scontra con l'indisponibilità. L'indisponibilità di una categoria a garantire l'assistenza anche a chi sta nelle zone più marginali. Io dico, di fronte a questa che è una situazione da terzo mondo, se non da economia di guerra, anche chi sta seduto negli uffici e ha uno straccio di laurea in medicina, si alza e va a fare il servizio dove serve. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Le Fiamme Gialle di Gorizia hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di una parafarmacia con doppio punto vendita a Cormons e a Monfalcone, risultata essere un evasore totale. L'attività infatti vendeva i propri prodotti emettendo regolarmente scontrini e ricevute ai clienti, non registrandoli però nella contabilità, omettendo addirittura di presentare le dichiarazioni fiscali e di conseguenza non versando al fisco sia le imposte dirette che l'IVA dovuta. Al termine del controllo, che ha riguardato gli ultimi 5 anni d'imposta, i finanzieri hanno accertato quindi un'omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi per 850.000 euro e un'evasione all'imposta sul valore aggiunto per 124.000 euro. La parafarmacia negli anni era sempre stata sconosciuta al fisco e la sua individuazione è stata possibile grazie ad accurate attività informative e investigative sia sul territorio sia con l'utilizzo delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza. 12:38, passiamo al meteo. Il tempo è sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11:00 a Trieste 22 gradi, Gorizia 25 gradi e mezzo, Udine 25, Pordenone 24 gradi, in area montana Tarvisio 21 e mezzo, Tolmezzo 23, Forni di Sopra 22 gradi, Sappada 20, Piancavallo 19 gradi, in quota sul Monte Lussari 16 gradi, sul Monte Zoncolan 17, sulla costa Lignano e Grado 24 gradi. Le previsioni: nel pomeriggio e in serata avremo ancora bel tempo su pianura e costa con venti di brezza e temperature estive in pianura. Sui monti variabilità con la possibilità di qualche rovescio verso il cadore. Domani in mattinata cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio ancora bel tempo su pianura e costa. Sui monti variabilità con la possibilità di qualche locale rovescio temporalesco, più probabile verso il cadore. Gli incidenti stradali nell'area giuliana sono in calo e sono stati quasi 900 nel 2023, l'ultimo anno con dati ACI disponibili. 7 le vittime 12 mesi prima i sinistri stradali erano stati poco meno di 1000, con 12 morti. A Trieste, in Piazza Unità, questo fine settimana c'è la manifestazione Trieste for Safety Friuli Venezia Giulia per sensibilizzare sui temi della sicurezza al volante, manifestazione promossa dalla Regione con l'ACI provinciale. Presente il presidente dell'Automobile Club Giuliano Novacco, sentiamolo. Presidente Riccardo Novacco, Automobile Club di Trieste. Dunque, questa giornata, una giornata importante di sensibilizzazione, ne realizzate tante da tanto tempo ormai sulla necessità della sicurezza sulle strade. Gli incidenti in provincia di Trieste continuano ad essere un certo numero, su 200, quasi 30.000 abitanti, 892 incidenti, 7 morti, sono dati del 2023, gli ultimi dati disponibili. Che cosa vuol dire, che cosa si può fare ancora per sensibilizzare, per rendere più sicure le nostre strade? Che cosa vuol dire dare una risposta secca? Credo che sia difficile per chiunque. Quello che si può fare, invece, possiamo fare tutti assieme, le istituzioni, questo è un esempio, sono tutte molto vicine, c'è questo gioco di squadra che guarda alla sicurezza stradale, dove Regione in primis con il progetto Safety FUG, che in qualche modo dà l'incarico ai 4 AC regionali, il coordinamento del Comune di Trieste, che con questo evento dove siamo oggi in Piazza Unità d'Italia ci vede coinvolti su più tematiche, perché c'è anche la tematica agonistica con delle corse che comunque si stanno svolgendo in Friuli Venezia Giulia, c'è un concorso di eleganza. Ma dove ci troviamo adesso? Parliamo già da ieri di sicurezza con la polizia locale, con la polizia stradale, con dei simulatori. C'era la fila ieri di ragazzi che comunque volevano provare i simulatori, volevano capire quali sono le difficoltà vere, e alla fine il messaggio che vogliamo dare è che molto probabilmente, ma io ne sono certo, il problema siamo noi, cioè il problema sei tu, è lo slogan, tu che guidi intendo, perché i mezzi oggi sono talmente sofisticati che non possiamo dare la colpa ai mezzi. Probabilmente questo terribile telefonino che tutti noi usiamo purtroppo, piuttosto che i messaggi che uno purtroppo, anche questo fa, portano i risultati e i numeri che ha detto lei, che sono dei numeri assolutamente fuori luogo e che dobbiamo fare di tutto in qualsiasi evento per cercare di arginare. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Technology Day all'Istituto Il Tagliamento di Spilimbergo. Studenti a confronto sulla tecnologia del territorio. È la conclusione di un progetto tecnico durato 2 anni che ha coinvolto ragazzi e ragazze degli indirizzi di meccanica e meccatronica e di informatica e telecomunicazioni dell'Istituto Il Tagliamento di Spilimbergo, il Technology Day, conferenza dedicata ai 70 anni di innovazione in questo territorio. Storia poco nota, 70 anni fa, da Anduins in Val d'Arzino è stato costruito il primo elicottero in Friuli Venezia Giulia, opera del visionario fondatore della Lima, Carlo Leopoldo Lualdi. Il giornalista Giuliano Filippi. Lui era un grossissimo appassionato di volo e soffriva un po' problemi di viabilità, perché da Anduins spostarsi verso la valle, verso Udine, era gravoso. E quindi cosa pensò? Pensò di costruirsi un elicottero. Andò al Malignani, pescò il più brillante neodiplomato in costruzione aeronautiche, Sergio Tassotti. Loro due, in meno di un anno e mezzo, riuscirono a mettere assieme un prototipo che volò la prima volta a fine marzo 54 e fu un grande successo. E gli studenti hanno potuto visitare diverse aziende del territorio attive nel settore. L'insegnante Bruno Anelli. È un percorso che è nato 2 anni fa, con una visita presso un'azienda della Carnia, che è una piccola azienda artigianale che fa elicotteri da turismo, prodotti di nicchia. I ragazzi si sono appassionati a questo mondo e quindi abbiamo convocato altre aziende con le quali abbiamo fatto un percorso di visita in azienda, lezioni. Tra queste anche il 5° Reggimento Rigel con lezioni sulla tecnologia degli elicotteri militari. Il colonnello Daniele Mantoani, comandante del 5° Reggimento Rigel. Il futuro anche dell'esercito passa attraverso i giovani. Oggi abbiamo presentato quali sono le opportunità lavorative all'interno dell'esercito, ma anche in realtà che ci rendiamo conto che noi abbiamo bisogno di giovani e sui quali stiamo costruendo le tecnologie future per adattarle alle loro esigenze. Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Compie 20 anni il Teatro Verdi di Pordenone, ricorrenza festeggiata ieri con un concerto straordinario che ha visto protagonista il mezzosoprano Daniela Barcellona. Una storia cominciata la sera del 28 maggio 2005 con Lori Masel sul podio e tutta una città in sala e davanti ai maxischermi a godersi lo spettacolo del nuovo Teatro Verdi di Pordenone. In 20 anni questo spazio è diventato la casa della cultura cittadina, campo centrale di tutte le manifestazioni da Pordenone Legge ad Edica al Festival del Muto e spazio per stagioni teatrali e musicali di livello assoluto. E a festeggiare l'anniversario, ieri è arrivata l'orchestra del Verdi di Trieste, diretta da Alessandro Vitiello, insieme ad un cast vocale guidato da Daniela Barcelloni. Un concerto dedicato al repertorio operistico, come accaduto 20 anni fa, con il soprano Giulia Alletto e il tenore Simone Fenotti ad alternarsi con Barcellona sul palco. Una festa in musica per un teatro che è patrimonio dell'intera regione, non solo di Pordenone, e che sarà ancora più importante quando la città, fra 1 anno e mezzo, diventerà capitale italiana della cultura. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Festival Mugesano dedicato a Beethoven, in calendario anche domani, punta ad allargare la platea dei suoi estimatori. Nel pomeriggio i concerti nelle calli e in teatro. Conoscere Beethoven, la sua musica e l'uomo, farlo a Muggia con i concerti nelle calli, in teatro e in biblioteca, ma anche nella casa museo a lui dedicata. Un festival che punta sui giovani con laboratori dedicati ai bambini, cominciando dall'iconico attacco della Sinfonia numero 5. Sergio Carrino, Società dei Concerti, Trieste. Credo che Beethoven sia il compositore più famoso al mondo, ma non solo compositore, il musicista, perché sono sicuro che in qualunque luogo del mondo, se uno semplicemente pensa all'inizio della quinta di Beethoven, no, ta, ta, ta, ta, credo che questo è riconosciuto qua e in tutto il mondo. Quindi non credo sia difficile, credo che sia una musica che si conosce, credo però che è una musica che va approfondita, perché è piena di segreti. Appuntamento con la musica di Beethoven alle 15 al Museo Carrà, alle 17 nelle Calli Mugesane, alle 19 in Piazza Marconi e alle 20:30 al Teatro Verdi. Musicista, compositore e uomo, Beethoven, che ha dovuto superare le difficoltà fisiche dovute alla sua sordità e che può essere scoperto anche nella Casa Museo, arricchita da oltre 11.000 pezzi originali di una collezione nata quasi per caso e oggi tra le più importanti d'Europa. Giuliana Malfatti Carrino. E l'uomo Beethoven ha lasciato dietro di sé una straordinaria eredità per quel che riguarda il suo comportamento, come ha affrontato le difficoltà della sua vita con energia e con successo straordinario, nonostante tutti i problemi di salute e economici che ha avuto. Sergio Carrino. E poi piano piano siamo andati avanti in Austria, in Germania, in Francia, in Inghilterra e poi anche dall'altra parte del mondo, perché Beethoven è veramente accettato e ricercato in tutto il mondo. Muggia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Gorizia prosegue la 21ª edizione del Festival Storia, quest'anno dedicata al tema città. Tra i numerosi appuntamenti di oggi, della manifestazione in programma fino a domani, c'è l'incontro Trieste, la Venezia Giulia, la Mediateca Casiraghi alle 15, a cui interverrà Pierluigi Pallante, autore del libro Il PC e la questione nazionale, Friuli Venezia Giulia 1941-1945. Lo abbiamo intervistato per chiedergli una sintesi del suo intervento. L'Alto Adriatico è stato per secoli una via d'acqua di comunicazione, un confine mobile fra Occidente e Oriente, tra mondo romano, mondo greco-bizantino e slavo, tra religione cattolica, ortodossa e Islam, quindi un luogo di sovrapposizione di culture italiana, slava, tedesca e ungherese. Nel 7-800 l'Austria, la scelse come principale scalo marittimo dell'impero, e Trieste passa da 5.700 abitanti a 230.000 nel 1914, in maggioranza italiani ma con oltre 56.000 sloveni. Nella seconda metà dell'Ottocento la questione nazionale diventa centrale, perché dopo le guerre di indipendenza solo il Trentino e la Venezia Giulia erano rimasti fuori dal territorio nazionale. L'Italia, vittoriosa nella prima guerra mondiale, conquistò territori che non erano mai appartenuti prima, Trieste, tutta l'Istria e poi anche Fiume, e attuò una politica di snazionalizzazione degli slavi fino ad arrivare nel 1941 all'invasione e all'annessione di parte della stessa Slovenia. L'esercito italiano, non solo i fascisti, si rese responsabile di crimini di guerra Nel 1945 la Jugoslavia, che era una nazione vincitrice e alleata degli anglo-americani e dell'Unione Sovietica, occupò tutta la Venezia Giulia, compresa Trieste, rivendicando il confine fino al tagliamento. E per 40 giorni, nel maggio del 1945, Trieste fu amministrata dalla Jugoslavia. È il periodo delle deportazioni e delle foibe. Con il Trattato di Basel del 1947, che non fu imposto dalla Jugoslavia, ma dalle potenze vincitrici, cioè Stati Uniti, Gran Bretagna, appunto Unione Sovietica e Francia, l'Italia fu costretta a cedere gran parte della Venezia Giulia alla Jugoslavia, mentre Trieste fu amministrata fino al 1954 da anglo-americani. Questa era la tragica conclusione della guerra fascista, che aveva riaperto la questione del confine con la Jugoslavia e ne era la testimonianza della sconfitta subita dall'Italia. L'esodo, una tragedia umana e politica, coinvolse circa 300.000 istriani, fiumani e dalmati. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale. Grazie a tutti voi per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.